Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Ho letto qualcosa di molto, molto interessante che potrebbe stuzzicare il tuo appetito. A proposito dell'edonismo radicale, il concetto di piacere senza restrizioni di sorta. Come dice Aristippo, questo filosofo greco che ha vissuto nel IV secolo, nella prima metà del IV secolo avanti Cristo, il quale affermava che godere del massimo piacere fisici, dei piaceri fisici, costituisce lo scopo della vita e che la felicità è data dalla somma dei piaceri che si sono goduti. Se c'è un ambiente dal quale il rock solitamente tende a tenersi alla larga, è quello intellettuale filosofico. E non è una questione di pregiudizio o di paura, è che c'è proprio un'incompatibilità di fondo. Mentre il primo vive dei suoi stessi attimi e percorre il mondo attingendo qua e là al necessario, lasciando istinto e pancia al timone, il secondo tende a costruire tramite la riflessione profonda e a tessere una visione del mondo utilizzando ragione e logica, a comporre, non a demolire. Esistono dei rari punti d'incontro, come dei moli in cui la barca impazzita del rock e l'oceano sterminato del sapere trovano una tregua, un punto d'incontro per permettere a chiunque lo desideri di imbarcarsi e affrontare la temibile attraversata. Servono marinai con una buona dose di coraggio, uomini duri. Talvolta, ma è un caso veramente raro, succede che a imbarcarsi sia una donna. E a quel punto i pericoli aumentano, perché una donna è una tentazione che distoglie e potrebbe destabilizzare l'equipaggio con la sua sola presenza. Bisogna essere molto coraggiose o molto folli per buttarsi in una sfida del genere. Coraggiosa, un po' folle e seguace di Aristippo. È il ritratto perfetto di Loredana Bertè. Buonasera la notte che verrà. Disperati amanti della luna. La sua bocca nera. Sono soli con me e qualcuno si innamora fino a quando l'alba tornerà. Loredana Bertè è l'immagine del rock femminile nostrano, la prova vivente che nonostante i confini e le radici, la forza della musica rock è proprio la sua capacità di adattamento e sviluppo in ogni ambiente, a qualsiasi latitudine e condizione. Quando il 20 settembre 1950 Loredana emette il suo primo grido a Bagnara Calabra, dove nasce, nessuno, neanche la più temeraria delle menti, può immaginare che quello non sia un urlo, ma semplicemente l'inizio di una carriera. Io personalmente non amo molto le definizioni, perché portano a limiti, determinati limiti. Preferisco fare della musica a seconda del momento, delle sensazioni che ho con il mio team quando siamo in sala di incisione, in fase di realizzazione, che sia rock, che sia funky, che sia reggae. Musica è musica, quindi anzi, al limite preferisco definirmi una cantante pop, ecco, popolare. Non lasciatevi ingannare dal pensiero di Loredana Bertè. In quanto portatore sano di musica, difficilmente sceglie di adagiarsi sulla pagina di un pentagramma. Al contrario, tende a saltellare di fiore in fiore, col solo scopo di soddisfare gli istinti primari che si affacciano dentro di lei. È una dote naturale, così come la voce rauca e sensuale e l'indole aggressiva. La dote di una ragazzina che non vuole accontentarsi di un piccolo paese in provincia di Reggio Calabria, ma che anela la luce calda e potente dei riflettori, il brivido intenso del successo. Questo è quello che dice l'urlo che si sprigiona dal corpicino di Loredana il giorno in cui viene al mondo. Voglio essere una cantante rock! Ritorniamo alla domanda precedente, non volendo. Cantante rock è lo stesso, non mi dispiace, però devo dire che è abbastanza confuso oggi l'idea e che mi definiscano gli altri mi piace lo stesso, però vorrei che facessero questa distinzione, ecco, che noi personalmente abbiamo fatto in fase di lavoro proprio, realizzazione del disco. Quindi vorrei che fosse arrivata, ecco, a tutti. Abbiamo capito, niente imperativi, è una rinuncia che si può fare. D'altra parte era prevedibile, quando ci si tuffa nel mondo della Bertè qualche onda anomala è da mettere in conto. Ma sia chiara una cosa, non siamo qui per giudicare nessuno, semplicemente per raccontare una storia. Una storia sporca, ruvida, tosta. Una di quelle storie che ti lasciano addosso una strana inquietudine, come una scossa che attraversa il corpo. E questa stessa scossa che scaraventa Loredana a Roma quando è poco più di una ragazzina, per vedere di che stoffa è fatta. La radio e i giornali è una musica banale, si diffonderà. Nuove avventure, discoteche illuminate, piene di bugie. Ma verso sé uno strano concerto e un ombre nome che ri- A rigor di cronaca, ciò che spinge Loredana fino ai colli di Roma è la sorella Domenica, Mimì per gli amici, Mia Martini per tutti gli altri. E il dato più interessante, in seno a una piccola famiglia calabrese coesistono non una, ma ben due anime votate alla musica e decise a tutto pur di coronare il proprio sogno. E tutte e due ci riusciranno. Roba da mandare in tilt qualsiasi agenzia che si occupa di statistiche. Ma andiamo con ordine. A metà degli anni 60, dunque, Loredana decide di raggiungere la sorella maggiore che si era trasferita nella capitale in cerca di celebrità. Ma rispetto a quest'ultima, la giovane Bertè ha le idee un po' meno chiare, per questo si affida all'istinto. E l'istinto le suggerisce la prima cosa da fare. Ballare. Eravamo un gruppo di giovani scatenati e devo dire che ballavamo tutto il giorno gratis allora al Piper. Allora qualcuno ha pensato bene di invitarci un giorno in Rai e dire: invece di ballare al Piper, perché non ballare con Rita? Sì, ci sembrava vero. È un inizio, come si dice in questi casi. Non era difficile prevedere che Loredana prima o poi sarebbe incappata nel Piper. Se ti trovi nel bel mezzo degli anni 60, infatti, e hai voglia di respirare un po' di aria frizzante, il locale di Via Tagliamento è il posto ideale. Un palco e una pista da ballo che ti permettono di percepire gli echi di quello straordinario spirito di libertà che sta soffiando dalle coste americane e inglesi. La Bertè lascia che sia il ballo a guidarla, senza badare più di tanto alla strada e soprattutto alla gente. Rita Pavone è solo uno dei tanti nomi che la circondano e a cui in fondo non è il caso di badare. Sì. L'abbiamo fatto i miliardi, abbiamo fatto Stasera Rita, se abbiamo Rita, è un sacco di numeri di fantastico, di, aspetta, si chiamano partitissime allora, si chiamavano Stasera, il sabato sera. C'è anche un certo Renato Fiacchini con lei, un tizio strano, uno che si sente dare spesso dello zero e che quello zero se lo metterà come cognome d'arte, tanto per far capire agli altri che lui non ha nessuna intenzione di mollare. Diventeranno amici, amici per una vita, e lo faranno presentandosi insieme ovunque siano in cerca di qualcuno. Avevamo deciso di lasciare il balletto, allora volevamo diventare qualche cosa di più e ci davamo da fare con tutte le varie audizioni. Un giorno si cantavano, si ballavano, noi infatti il nostro slogan era canto, ballo, recito. Ci dai, tu cosa fai? Come richiami subito, canto, ballo, recito, cosa c'è da fare oggi? Questa storia del canto, ballo, recito va avanti per un bel po', fino agli inizi degli anni 70. C'è sempre la musica di mezzo, in ogni caso. Loredana lascia tracce di sé, udibili e provocanti, come quando recita nella versione italiana del musical Hair. Qualche coro, un brano da solista e una passeggiata sul palco senza veli. Riesce anche a conquistarsi qualche piccolo ruolo d'attrice e, tanto per non perdersi niente, dà il via alla sua lunga sfilza di amori famosi e tormentati, diventando la ragazza di Adriano Panatta. C'è già del rock che scorre in questa storia, ma è il momento del primo magnifico destino. Si chiama Alfredo Cerruti, di mestiere fa il produttore esecutivo dell'etichetta discografica CBS. È lui a dare il là alla carriera di Loredana. È lui che la mette sulla rampa di lancio. È lui che la manda in studio per farle incidere il primo album da solista. Ti piacerebbe, ti piacerebbe, non pensarmi mai, ma non puoi. Ti piacerebbe, ti piacerebbe, non pensarmi mai, ma non puoi. L'album Streaking, il disco di esordio di Loredana, è esattamente come lei, una creatura strana. È un concept album sul tema del sesso. come disegnare un enorme punto rosso per i fucili spianati della censura della Rai. La copertina originale che ritrae la Bertè seduta con le ginocchia al petto senza veli verrà presto rimpiazzata dalla stessa foto con in più i vestiti. I brani hanno titoli come «Ti piacerebbe?», «Fare l'amore?» e «Non so dormire sola?». Ci sono già spruzzate di rock, ma la verità è che Cerruti vuole sfruttare l'ondata sexy che la musica sta portando con sé. Se tu intendi per sexy music una che magari si presenta, diciamo, in abbigliamento un po' sexy, allora forse sì, diciamo, ero un po' coinvolta. Perché il mio abbigliamento era abbastanza, diciamo, pure sexy. Però si limitava solo a quello, basta. In fondo anche Alberto Cerruti non è in cerca di definizione. In quanto discografico il suo intento è solo quello di produrre hit che vendano sul mercato. Ma ci vuole fiuto anche per questo. E Cerruti di fiuto ne ha sempre avuto, soprattutto per le stravaganze. Altrimenti Renzo Arbore non lo avrebbe cercato per la sua trasmissione culto Indietro Tutta, e altrimenti non sarebbe diventato la famosa voce narrante degli Squallor, il gruppo satirico e demenziale per eccellenza, nato in Italia negli anni 70. Ciao, vediti arrapao. Questo è un canto tipico d'amore indiano della tribù degli Arrapao. Sia quel che sia, la corsa a ostacoli di Loredana verso il rock è cominciata. E qualche anno dopo dà alla luce la sua prima scintillante creatura. È una canzone che cala con dolcezza sulla pelle nuda e morbida della Bertè come un abito fatto su misura. Una finestra che si spalanca lasciando che la voce sensuale e graffiante della calabrese si liberi nell'aria per poi penetrare nei corpi degli ascoltatori. È il 1975 e l'urlo del neonato si è fatto quello di una donna. Una donna bellissima. E mi sembra di sentire ancora, sei bellissima, sei bellissima. Accecato l'amore, mi stava a guardare. Beh, in quel periodo, diciamo, ho vissuto questa certa situazione e ho voluto cantarla. D'accordo con l'autore, abbiamo, diciamo, costruito pure insieme questo pezzo, perché io magari lo mettevo al corrente delle mie pene, delle mie crisi, e lui ci ha fatto la canzone. Niente di più semplice, no? In fondo anche il rock parla d'amore. L'argomento più democratico e diffuso nel mondo. Uno dei segreti di Loredana è proprio questo, la sua onestà, la capacità di graffiare su argomenti che lei conosce bene e di cui spesso è la prima testimone. Quando un suo brano finisce, nessuno ha la sensazione che si sia trattato di un sogno o di una interpretazione di rara bellezza, si ha al contrario la netta percezione che quello successivo avrà lo stesso indiscutibile trasporto. Per questo la canzone Sei bellissima si intrufola a fatica nei festival e nelle trasmissioni canore, ma riesce a penetrare benissimo nelle case degli ascoltatori, come una lama affilata nel burro. Il pubblico è molto più esigente oggi e fortunatamente si fanno delle scelte ormai. I blef non hanno più motivo di esistere, e se non c'è del talento, della rabbia vera, della volontà di ferro, è meglio che si cambi mestiere o che si faccia qualsiasi altra cosa meno che questo. Ad un'occhiata più accurata, tra le intricate maglie di questo brano è possibile scorgere uno dei motivi per cui la carriera della Bertè è destinata al successo. È il nome della persona che si prende la briga di inserire la canzone in un album e di produrre il tutto. Si chiama Mario Lavezzi ed è il secondo magnifico destino di oggi. Mario incappa nella sfolgorante cantante calabrese a metà degli anni 70 e immediatamente decide di correre il rischio. Il risultato sarà il disco Normale o Super. Poi non ha concluso niente. i magnifici destini. No, no, noi non seguiamo moda. Io dico noi perché mi riferisco alla mia equipe, che Mario Lavezzi più che altro è il mio produttore e collaboratore. Quindi decidiamo tutti insieme. Quello che sento io maggiormente si fa. Se poi magari quello che sento io è sbagliato, allora vediamo di coinvolgere qualche altra cosa. Comunque all'epoca io pensavo e sentivo effettivamente questi problemi, anche perché io sono una donna, quindi lo dico attraverso la mia professione, non è che faccio qualche altra cosa, quindi mi sembrava giusto affrontare anche un determinato tipo di discorso. Loredana Bertè canta se stessa e di conseguenza canta la donna. Canta perché è l'unico modo che conosce per comunicare e per farsi ascoltare. Lo fa con una voce roca, sexy, piena di increspature. E se per caso questo non dovesse bastare, ecco pronti un abito succinto, una mossa maliziosa, un sorriso languido. È il suo modo di essere il più sincera possibile. E la sincerità è una delle leggi costituzionali del rock. A metà anni 70 Loredana risveglia i pruriti della nazione rimasti assopiti dentro la vita di tutti i giorni. Lo fa con un brano unico, Sei bellissima. Un grido d'amore disperato. Dietro le quinte, il magnifico Mario Lavezzi, produttore del pezzo, sorride soddisfatto. Il destino ha compiuto la sua missione. Una vita di più. Io per lei. Io per lei vincerei. Anche il sole perché. In fondo ci vuole anche un pizzico di fortuna. Quando Loredana e Mario si incontrano, quest'ultimo ha già alle spalle un'ottima carriera come musicista e come compositore. È stato uno dei chitarristi dei Camaleonti, uno dei gruppi principali all'intero fenomeno beat italiano. Poi un giorno conosce Mogol, il grande Mogol, che se lo porta alla numero uno, la mitica etichetta discografica, e lo convince a dedicarsi di più alla stesura dei brani. È una delle tante scelte azzeccate del fantomatico Giulio Rapetti. Lavezzi comincia e non si ferma più. Amico giorno, tu che ti apri insieme a me, sul mondo esterno, sopra una selva di perché. Mario Lavezzi riesce, nel tentativo di dare una fisionomia definitiva a quella sensuale creatura senza forma di nome Loredana Bertè. Le scrolla di dosso il ballo e la recitazione senza cavarglieli dalla pelle, ma concentrandoli in un'unica forma di espressione, il canto. A Loredana viene data così la possibilità, una volta per tutte, di mettere in mostra quello che è veramente. All'epoca non eravamo capiti, perché la gente non era abituata a vedere magari Loredana Bertè che si spostava dalla cantante, faceva la ballerina, poi un po' la corista, poi ritornava a cantare, e allora si sentivano un po' persi. È un periodo strano quello che attraversa la cantante calabrese alla fine degli anni 70. Mentre è impegnata nella sua scalata verso la gloria, la Bertè incespica in alcuni ostacoli figli di una maturazione che non è ancora arrivata a compimento. L'album Tir, con le sue grida, i suoi lamenti e la sua introspezione, è un piccolo rompicapo che non aiuta a sbrogliare la situazione. Il gossip comincia a invadere la vita della cantante, lasciando emergere le prime crepe di un rapporto con la stampa che non troverà mai pace. In più, la stella Bertè comincia a mietere vittime, e tra di esse affiora il corpo della sorella. C'è gente che insinua, e Loredana, come d'abitudine, interviene. Senti, tu hai fatto un'operazione sorpasso. Sì. In famiglia. No, ti spiego. Ah, sì. Voglio dire, cioè tu prima eri meno conosciuta di tua sorella Mia Martini, adesso l'hai sorpassata. Come è avvenuto questo sorpasso? Perché è avvenuto questo sorpasso? Ma io non è che abbia sorpassato qualcuno. Volontariamente? No, secondo me è successo che magari, non so, io abbia venduto un disco in questo momento, o magari fino all'anno scorso, sì, più di lei, e lei magari sia passata, diciamo, in secondo piano perché sta facendo altre cose. Adesso infatti sta preparandosi come cantautrice e uscirà fuori veramente in grande. Va bene, allora come io sono auguri di famiglia. Sì. Secondo me mia sorella non è perché sia mia sorella, ma è una delle più grandi cantanti in Italia. Ci dovrà fare i conti per il resto dei suoi giorni, Loredana, con questo tipo di insinuazioni. Fa parte del gioco. In qualche modo il rapporto con la sorella resisterà, nonostante qualche scivolone, anche se finirà per dover scontare qualche ferita profonda. ma questa è un'altra storia. Tutta la polvere e tutta l'acqua stagnante che circonda la cantante calabrese viene spazzata via nel 1979, quando esce l'album Banda Bertè, l'album che la incorona regina del rock. La cerimonia di investitura inizia con un brano reggae che, condito col suo timbro inimitabile, trascina tutti gli ascoltatori in un lento ballo di gioia. Loredana Bertè ha bussato alle porte del successo e qualcuno le ha aperto. Ma una voce sbagliata disse non è più tempo. Quindi spalancò le finestre del vento e se ne andò a cercare un po' più là qualche cosa da fare. Dopo aver pianto un po' per un altro no, per un altro no, che le disse fare. E la luna bussò è il brano che trascina l'album Banda Bertè in cima alle classifiche. Ma non è il solo motivo del successo. Gli altri si chiamano Battisti Mogol, Pino Daniele, Alberto Radius, Ivan Graziani, oltre all'onnipresente Lavezzi. Tutti in un modo o nell'altro mettono lo zampino nel disco. La ciliegina sulla torta è un omaggio di Ivano Fossati, uno che con la famiglia Bertè evidentemente ha un conto aperto, con un brano che permette a Loredana di sciorinare tutta la sua grinta e trovare finalmente un posto nell'affollato salotto della musica. Sì, quella è importantissima perché segna una svolta decisiva alla mia immagine, diciamo che focalizza proprio la mia immagine di allora e che è quella di oggi, diciamo, e perché venivo fuori appunto da questa disco music lì che eravamo tutti insieme, non si capiva niente, la gente purtroppo in Italia fa, dico in Italia ecco perché io più che altro vivo in Italia, quindi mi riferisco a loro, fa sempre dei calderoni, diciamo, e mette dentro tutto, non è che dice ah questa fa folk, quell'altra fa musica sexy, quell'altra disco music, no, purtroppo loro mettono tutti insieme e a me non stava bene far parte di questo calderone, quindi in tempo, devo dire grazie al cielo, sono riuscita a tirarmi fuori e appunto questa canzone mi dava l'occasione e la possibilità di presentarmi in maniera nuova e diversa, l'ho afferrata al volo. Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più. A chi non ha uno specchio, e comunque non per questo, non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo sole, va sempre più giù. Gli anni Ottanta si aprono nel segno dell'incertezza. I turbolenti anni di piombo sono arrivati alle ultime cartucce, la TV e l'etere vendono spazi al miglior offerente. L'edonismo si fa largo e il termine popolare esce dai propri steccati per affrontare l'ignoto. Tutti sembrano cercare freneticamente qualcosa. La Bertè no. Lei ha già trovato quello che cercava. Adesso è libera di vivere come aveva sempre sognato, da rockstar. E le rockstar, si sa, non hanno peli sulla lingua. Perché tu il rapporto con le donne come ce l'hai? Ma di solito di sfuggita, cioè almeno per quanto riguarda le colleghe. Ma le senti concorrenti? No, le sento però più indietro. Ti senti non ho nessun uno. Dialogo con loro. Ti senti il numero uno in Italia come donna? No, magari. La favola della Bertè è la storia di un trionfo. La piccola bambina di Bagnara Calabra è sul tetto del mondo. Canta, viaggia, ama, frequenta personaggi famosi, dice quello che vuole e la gente pende dalle sue labbra. È una sensazione indescrivibile. Eppure, osservandola mentre sfoggia il miglior sorriso estatico che si possa immaginare, si percepisce una piccola nota di distacco, una minuscola deformazione del viso o delle labbra che ne intaccano la purezza. E non c'è verso di farlo andare via, c'è un piccolo angolo della Bertè destinato a rimanere buio sempre, nonostante lo sforzo delle luci. È il suo destino. Il sole, mi accorgo che vesto male, magnifici destini. Ma io sono insicura, ma è giusto essere insicuri. C'è la certezza, chi ce l'ha oggi? I cretini sono sicuri. L'incertezza è una continua ricerca. La ricerca è studio, è esperienza e porta sempre, chissà perché, dei dubbi. E quelli ce l'ho sempre. Nei suoi numerosissimi spostamenti insieme a star, amici, colleghi e personaggi influenti, siano essi brevi o all'altro capo del mondo, Loredana Bertè non dimentica mai di mettere nella valigia la dose indispensabile di dubbi, l'elemento essenziale del suo personalissimo corredo. Lo fa quando comincia a frequentare la Factory di Andy Warhol, lo fa quando va a Sanremo col pancione finto o quando è ospite di Fantastico. Lo fa al suo matrimonio con il figlio del magnate Berger e lo farà più avanti alla Casa Bianca con Borg, la famiglia Bush e qualche parente di Bin Laden. I dubbi sono importanti, soprattutto quando intorno a te nessuno sembra più averne. Signore e signori, Loredana Bertè. Questa frase enunciata con forza dal Pippo Nazionale è il mantra che da un certo momento accompagna Loredana a ogni passo. Bella, brava, un po' dannata e un po' romantica, molto sfacciata e poco addomesticabile. Loredana Bertè ormai è rock allo stato puro. E tutto questo culmina in un brano che diventa un manifesto. Succede che a un certo punto quello che si ha non basta più e in qualche modo si cerca di andare oltre. È l'adrenalina del rock quella che ti fa fare cose che non ti aspetti. Il risultato è che nel 1985 Loredana si mette nei panni di produttrice di se stessa e pubblica un album intero di canzoni di Javan, un cantante brasiliano di valore ma non certo conosciuto in Italia. Carioca, questo è il titolo del disco, è senza dubbi il lavoro più ambizioso della Bertè. Un modo per dimostrare, se per caso ce ne fosse ancora bisogno, che non esistono regole a cui piegarsi. E così Javan diventa il terzo magnifico destino di oggi. Acqua splenderà, limpida sarà, acqua porta via la guerra. Acqua, acqua forte, acqua scura. Di qui in poi diventa difficile spiegare gli avvenimenti che seguono, anche per noi. Succede che in qualche modo, per qualche motivo, la macchina Bertè comincia a buttare fuori colpi di tosse dal motore. È impossibile stabilire il giorno, l'ora, l'attimo in cui ciò avviene. È un'evidenza che affiora pian piano, prima attraverso deboli ma percettibili segnali, poi con urla, scontri e tamponamenti a catena. Più gli anni passavano e più era faticoso e durissimo fare questo, diciamo, gli altri lo chiamano mestiere, io lo faccio per vocazione come Mimì. E quindi cantare tra un quiz e l'altro non mi piace, ma non mi piace nemmeno che la mentalità provinciale, direi, di tutte le case discografiche, che adesso non esistono nemmeno più, anzi, grazie a Bill Gates, nemmeno più l'oggetto adesso c'è, quindi non si canta più. Non è che la Bertè o la sua ispirazione spariscano di colpo. Anzi, fuori di scena lei non c'è mai andata e ci sono molti brani a dimostrarlo. Ma è come se venisse inghiottita da uno strano vortice in cui tutto sembra essere fuori posto. L'urlo che da piccola aveva rivelato il suo desiderio di diventare una rockstar diventa un lamento in cui riversare tutti i colpi di una vita che a quella velocità non può essere senza rischi. La relazione con il celeberrimo tennista svedese Björn Borg è l'inizio di un tormento che sembra non trovare mai fine. E a cui inevitabilmente si finisce per attribuire una spiegazione. Che mi sono sempre buttata, un salto nel buio sempre, e ho pagato, sbagliando anche qualche volta, di persona. Eppure la musica non è finita. La grinta e la voce rock, nonostante gli anni, non sono spariti. Loredana ha continuato a coltivarle affidandosi al suo istinto, come sempre, ma anche a vecchi amici come Renato Zero o alla sorella con cui ha inciso brani fino alla sua tragica morte. ciò che le rimane in fondo è continuare a portare avanti quel grido che le ha sempre indicato la strada. Quindi mi sfogo su un palco e come posso, ci sto un'ora e mezzo, due, mi interessa, finché non mi caccia il DJ, che arrivano due cubiste e allora dico, ma sarà ora, descende. Ecco, così è la mia vita. Vivo pericolosamente, come è sempre stato del resto. E ecco, io sono il risultato di quello che ho visto, di quello che ho fatto. Gioco con la...